Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria in parte sono i temi emersi dall'ultima giornata di lavori ieri a Cernobbio al workshop Ambrosetti, e quindi mi riferisco al dialogo tra il segretario generale della CGIL Epifani e la presidente di Confindustria Marcegaglia, dialogo per arrivare anche a una partecipazione della CGIL in quella che è il tema che va sotto il nome molto ampio delle relazioni industriali, quindi contratti ma non solo, a fronte di una situazione che, per quanto in miglioramento, resta molto difficile. L'altro tema, e anche qui si tratta di un'appendice di quanto abbiamo letto oggi ed era emerso ieri, devo dire anche sabato, non tanto da Cernobbio quanto in realtà da meeting europei, e mi riferisco a j'accuse, chiamiamolo in maniera alta, del ministro Tremonti al mondo bancario: attenzione a non usare i Tremonti Bond, ossia quella possibilità che viene offerta dal governo alle banche di avere prestiti sotto forma di obbligazioni, poi da restituire, altrimenti diventerebbero convertiti in azioni. Comunque, non usare questi prestiti significa fare un danno ai cittadini e al paese. Perché? Perché in sostanza vorrebbe dire che non si usano degli strumenti, questo ragionamento, messi a disposizione, ma nel frattempo le banche riescono a macinare utili, li ricorderemo a breve, e questo ci fa piacere perché è importante che anche i grandi gruppi bancari tornino a macinare utile. Il problema è capire se questi utili non siano anche il frutto di un restringimento del credito, e qui diventerebbe meno giustificabile e giustificato il non ricorso a prestiti di carattere nazionale come Tremonti Bond, e quindi che questi utili non siano frutto di un restringimento del credito verso le imprese e i privati, oppure di un credito concesso con spread, con tassi più alti. Quindi, di fronte a un tasso dell'1% come tasso di riferimento europeo deciso dalla banca centrale, sappiamo che lo spread, la differenza tra quanto costa le banche il denaro e quanto lo fanno pagare, è aumentato considerevolmente, è arrivato al massimo dal 2003, siamo al 2,75% quanto a spread in media, cioè la differenza tra quanto costa le banche e quanto le banche lo fanno pagare. Questo è il secondo tema che affronteremo. Poi un'operazione in Gran Bretagna che rilancia lo shopping a livello mondiale, lo abbiamo detto più volte anche prima dell'estate. La crisi porta anche opportunità, chi ha liquidità, chi ha soldi in cassa può cercare di comprare, di fare acquisizioni a prezzi probabilmente di favore. L'operazione di oggi riguarda il gruppo, il colosso alimentare americano, la Kraft Foods, che ha offerto 10 miliardi di sterline per acquisire la concorrente inglese Cadbury. La proposta è stata rifiutata, creerebbe il gigante mondiale nelle merendine, nei piatti pronti, rifiutata dagli inglesi, ma Kraft non ha perso le speranze di poter convincere il consiglio di amministrazione dell'azienda concorrente. Ha offerto 300 pence e 0,25 azioni proprie per ogni azione di Cadbury. Praticamente sta offrendo la Kraft il 31% in più di quanto valga il titolo della Cadbury alla borsa di Londra. Se l'operazione andasse in porto, ne parleremo più avanti, si creerebbe il gigante mondiale nel settore, appunto, merendine, piatti pronti, 50 miliardi di dollari l'anno di fatturato. E, tra l'altro, Kraft eguaglierebbe a questo punto la quota a livello globale, la quota di mercato di Mars, altro nome che molti di voi conoscono, nelle tavolette di cioccolata, pari al 15%. E quindi qualcosa si muove anche a livello di grandi operazioni. Ultimo aspetto che tratteremo nella seconda ora è il piano di investimenti delle Ferrovie dello Stato. Già ve ne hanno accennato i nostri GR, 2 miliardi di euro, questa volta, da quello che si è capito, rivolti soprattutto al trasporto locale, pendolari ma non solo, viste anche le polemiche dei mesi scorsi in cui le Ferrovie dello Stato sembravano privilegiare solo la tratta ad alta velocità quanto investimenti, e non invece le tratte utilizzate da molti altri passeggeri, tratte non ad alta velocità, ma comunque ugualmente importanti. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito dalla borsa. Senza Wall Street oggi mercati, chiuso infatti l'America per il Labor Day, vanno bene tutte le borse europee, 1,5% è il guadagno di tutte, Parigi, Francoforte e anche Milano, Londra è la migliore, più 1,85%. Euro sempre a quota 1,43 nei confronti del dollaro, devo dire che ormai da mesi che l'euro, tranne poche eccezioni, resta stabilmente a quota 1,3, ma al minimo 1,2-1,4 nei confronti del biglietto verde. Per quello che riguarda invece il petrolio, poco mosso, a $68 al barile. Tra i titoli segnaliamo praticamente di negativo oggi, tra i titoli di maggiore capitalizzazione c'è solo Mediobanca che perde lo 0,7, molto bene Impregilo, più 4,8%, quasi 3 euro per azione. Anche perché è arrivata la notizia che Impregilo ha vinto una commessa che vale 243 milioni di dollari ad Abu Dhabi, era una gara internazionale per realizzare il primo dei 3 lotti del tunnel di circa 40 km di lunghezza che dovrà raccogliere le acque reflue dell'isola e della terraferma di Abu Dhabi per convogliarle alla stazione di trattamento. Comunque, la cosa importante per la borsa è che questa commessa vale 243 milioni di dollari, ecco perché il titolo si muove in maniera così forte. Bene anche Steam Microelectronics, più 4,6%, CIR più 3,80 come Parmalat, Autogrill più 3,2% come Geox, il 3% lo guadagna Luxottica e anche Buzzi Unicem, il 2,80 lo guadagna Tenaris, il 2,6 il rialzo del Banco Popolare, il 2,5 quello di Prismian e Italcementi, ma anche Telecom Italia. Unicredito più 2,3, Fiat più 1,80, come Intesa San Paolo, Mondadori più 1,6, Finmeccanica guadagna 1,5, Mediaset pure, Mediolanum e Bulgari e anche A2A l'1,3% di rialzo, l'Ottomatica pure, Campari, Fondiaria e Unipol, ma anche le Pirelli guadagnano 1%. E adesso passiamo a un insieme di notizie che riguardano lo stato della crisi o dell'uscita da questa crisi. Perché? Perché a Basilea, dove si è tenuto l'incontro fra i banchieri centrali del G10, il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto che gli indicatori dell'economia vanno meglio del previsto e molte stime stanno venendo riviste al rialzo. L'abbiamo già visto la settimana scorsa quando anche nei confronti dell'Italia sia la Banca Centrale Europea che l'OCSE hanno detto che chiuderemo con un pesantissimo 5% di calo, ma non più meno 5,5 ma meno 5 o 5,1. E Trichet ha continuato: il peggio della crisi è passato, ma è essenziale mantenere una forte cautela e restare prudenti. La finanza va meglio, ma si è lontani da una normalità. E poi ha aggiunto Trichet: non saremo perdonati, inteso come le autorità finanziarie mondiali non saranno perdonate se dovessero avere o in qualche modo tollerare o agevolare nuove crisi. Ancora però la Banca Centrale Europea e i governatori delle banche centrali del G10 hanno sottolineato come in questo momento la preoccupazione più forte sia sulla disoccupazione e sull'impatto nella fiducia delle famiglie a livello europeo. E anche dall'associazione Business Europe, che rappresenta tutte le confindustrie europee, emerge un dato diffuso oggi da Bruxelles per cui si registrano i primi segnali di una stabilizzazione dell'attività economica. Il PIL dell'area europea dovrebbe tornare, seppur di poco, a crescere nel 2010, più 0,5% in media nella zona euro, ma dicono le confindustrie europee non è il caso di fare salti di gioia. Tra il 2009 e il 2010 ci saranno 9 milioni di nuovi disoccupati, di cui 6 milioni quest'anno. E allora noi, guardando e sentendo le dichiarazioni di Trichet che dice la situazione va meglio, i bilanci delle banche anche italiane che sono state nel secondo trimestre tutti positivi, eppure però questa forte preoccupazione, queste attese per 9 milioni di disoccupati tra quest'anno e l'anno prossimo in più, è venuta in mente una vecchia canzone. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male, e chi sta come chi par. Arrivata la bufera. Eh sì, perché se da un lato c'è un cauto ottimismo, dall'altro poi vediamo 5 lavoratori dell'Alcatel di Battipaglia che hanno minacciato di darsi fuoco con taniche di benzina e bombole di gas se non sarà rivista la decisione dell'azienda di sospendere le attività manifatturiere. Lì ci sono 200 dipendenti e altri 300 interinari, tant'è che il ministro Scajola ha convocato sul tavolo, a un tavolo l'Alcatel per il 15 settembre. Un operaio, tra l'altro, in un'altra vicenda, l'Ilmas di Rivoli, Cesare Mango, 47enne, si era recato sul tetto dello stabilimento perché da 4 mesi che non riceve lo stipendio e gli stanno pignorando la casa a causa del mancato pagamento delle ultime 4 rate del mutuo. E insomma, la situazione sì, sarà anche in stabilizzazione, ma è lungo la cosiddetta exit, l'uscita da questa situazione. Anche la Confcommercio registra segnali di ripresa sul fronte dei consumi che per la prima volta dopo un anno e mezzo fanno registrare a giugno e a luglio 2 variazioni positive, più 0,5% rispetto al mese primo. Attenzione, dice però la Confcommercio, adesso è importante sostenere le imprese. Poi è arrivata Moody's dicendo che quest'anno il nostro PIL calerà del 4,4% contro il 5% atteso dal governo e il deficit nostro andrà al 4,5%. Avremo nel 2010 però un prudentissimo, timidissimo 0,1% di ripresa, cioè stagnazione economica. E allora la bufera è arrivata ed è alle spalle, il cielo sereno però ancora non si vede, inizia a essere forse variabile. All'interno di questo, e affrontando anche un autunno difficile, immagino anche un inverno sul fronte occupazione, ecco perché acquista rilievo l'incontro che si è svolto ieri tra il segretario generale della CGIL Epifani e la presidente di Confindustria Marcegaglia. Incontro che dovrebbe servire nell'obiettivo a portare anche la CGIL a un tavolo congiunto, non solo sui modelli contrattuali, ma in generale, insomma, affrontare una crisi che sarà a questo punto occupazionale con tutti i sindacati, sicuramente è una strategia unitaria che dovrebbe anche permettere di affrontarla meglio. È il tema ed è, diciamo, anche il tono dell'intervento di Marcegaglia ieri, appunto, a Cernobbio. La CGIL è un grande sindacato, quindi è un interlocutore importante per noi nelle aziende. Noi nel momento in cui abbiamo deciso di comunque andare avanti anche senza la CGIL l'abbiamo fatto perché pensavamo che, insomma, non possiamo bloccare certi processi di modernizzazione. È evidente che se ci fosse la volontà, e da parte nostra c'è, insomma, di favorire un ringresso della CGIL, chiaramente la stessa volontà ci deve essere anche da parte della CGIL. Questo certamente sarebbe credo un fatto positivo anche per questo clima, no, di responsabilità che noi vorremmo affermare davanti ai lavoratori, alle imprese in questo momento difficile. Quindi sì, mi pare che ci sia, chiaramente poi bisogna andarla a vedere nei fatti concreti, non possono essere solo dichiarazioni reciproche, ma bisogna poi vedere se ci sono concretamente le condizioni perché questo possa avvenire. Mi sembra di poter dire che è stato un dialogo costruttivo, quindi vedremo come evolverà questa situazione, però mi pare che ci sia da parte di entrambi la condivisione del fatto che siamo in una fase delicata e la risoluzione della crisi dipende anche dai nostri comportamenti, quindi di più non posso dire, però mi pare di aver colto è stato un dialogo costruttivo, a questo mi sento di poterlo dire. E Quindi tavolo sulla riforma dei modelli contrattuali a cui la CGIL non ha partecipato, ma anche complessivamente affrontare la crisi su, capendo che si è tutti sulla stessa barca, e poi il richiamo ai fatti concreti. Richiamo poi ai fatti concreti al di là del dialogo costruttivo che è arrivato anche da Guglielmo Epifani, che ha convenuto che è interesse di tutti affrontarla uniti, questa crisi nella parte appunto adesso occupazionale e anche economica. E però anche Epifani ha ricordato che a questo punto, dopo l'incontro, dopo diciamo il dialogo, è il momento dei fatti. Noi avremmo un interesse tra noi e l'impresa a chiedere assieme che non si licenzino i lavoratori, non si chiudano le aziende, che ci sia meno fisco sulle buste paghe dei lavoratori, perché questo è un problema di grande giustizia sociale che va affrontato. Poi abbiamo un tema che ci divide, cioè il modello contrattuale. Noi abbiamo avanzato delle critiche, aspetto che rispetto alle nostre osservazioni Confindustria rifletta e faccia qualche passo in avanti. Se fa qualche passo in avanti è chiaro che allora noi ne trarremo anche delle conseguenze. Questo è il lavoro che dovremmo fare nei prossimi giorni. Sì, avete ragione, non ho dato il numero per gli sms oggi, 349-238-6666. Continuiamo perché già comunque sull'incontro è stato definito appunto costruttivo, vedremo poi passi avanti concreti. Emma Marcegaglia ha fatto anche un appello ai sindacati perché assieme a Confindustria si faccia un progetto paese. Spero che i tavoli di trattativa delle categorie possano esserci quelle aperture che possano consentire un clima diverso. Questo lo diranno i fatti. Non possiamo basarci sulle parole, ci vogliono dei fatti. Confindustria sa quali sono le nostre critiche, le nostre osservazioni. Io spero che ai tavoli di categoria si possa tener conto di quella che è l'opinione della CGIL. La funzione delle parti sociali, Confindustria e sindacati, non è una funzione minore in questa situazione, e che quindi in questo progetto paese che va portato avanti per cercare di uscire meglio dalla crisi ci deve essere un ruolo importante anche di Confindustria e sindacati. Quindi ho fatto un appello anche a Epifani perché tra di noi prevalgano più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci separano, e che si gestisca queste situazioni di crisi, dell'uscita della crisi, non con una logica di conflittualità ma invece con una logica di coesione, che è quella che noi vorremmo portare avanti. Questo è il dialogo, Emma Marcegaglia, Guglielmo Epifani. La Presidente Confindustria è intervenuta anche su altri due temi. In primo luogo, dopo l'intervista, lo ricorderete, al Ministro Sacconi sul Corriere della Sera, l'ipotesi poi circolata anche come dibattito, così, nelle pagine dei giornali, di una partecipazione dei lavoratori, la cogestione, come si dice in gergo, netto no. Di Emma Marcegaglia, invece, la richiesta di un fondo che aiuti le imprese ad aumentare la loro capitalizzazione sul modello di quanto avvenuto in Francia e in Germania. Il tema della cosiddetta compartecipazione agli utili dei lavoratori, la nostra posizione su questo è chiaro. Prima di tutto questo tema deve essere lasciato all'autonomia delle parti sociali. Non vogliamo, come dire, un'ingerenza della politica, il rischio è che prevalgano demagogie. In Italia c'è una buona cultura di rapporti tra le parti sociali, quindi un tema come questo non può che essere lasciato alle parti sociali. Il secondo aspetto che ho sottolineato è che noi siamo totalmente contrari a ogni forma di cogestione delle aziende, non è in linea con il sistema industriale italiano. In paese dove è stato fatto si sta riflettendo per tornare indietro, quindi noi pensiamo che questo sia assolutamente non positivo, anzi negativo per l'Italia. E anche sul tema specifico della compartecipazione agli utili, noi diciamo abbiamo appena fatto una riforma degli assetti contrattuali che ha la sua centralità in un maggiore spazio al contratto di secondo livello. A quel livello lì un imprenditore può anche decidere, ma già lo può fare oggi, di distribuire una parte di dare salario in base agli utili. Quindi non facciamo come spesso si fa in Italia, che appena si è fatta una riforma la si cancella, magari ancora prima, la si cancella, cioè non la si applica ancora prima di portarla avanti, e se magari si pensa a un'altra legge, applichiamola, l'abbiamo appena fatta, applichiamola in quella logica. Quindi la logica della con partecipazione agli utili può essere inserita in questo discorso del secondo livello. Ci possiamo impegnare tutti, come dire, a facilitare questa cosa, ma niente di più. Insomma, altri aspetti, altre fughe in avanti non servono, anzi possono essere addirittura pericolose, quindi su questo la nostra posizione è molto ferma. Tornando al tema delle ristrutturazioni, delle aggregazioni, della capitalizzazione, che è una delle cose che sarebbe fondamentale fare in Italia, così come si sta facendo in Francia e in Germania, è studiare fondi, società consortili, possono essere regionali, possono essere settoriali, possono essere di vario tipo, che magari aiutino proprio le imprese a capitalizzarsi, quindi diano più capitale alle imprese, magari sottoscrivano azioni, obbligazioni convertibili. Insomma, il tema della capitalizzazione, delle aggregazioni nelle imprese, secondo noi rimane un tema essenziale per ridare forza alle imprese. Così è Marcegaglia, vedo già molti messaggi. Allora, alcuni riguardano il tema delle ferrovie dello Stato, dei 2 miliardi di investimenti nella rete locale. Se tutto va bene, alle 18.15 avremo in diretta l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Moretti, e rivolgerò alcune domande, anche perché molti di voi dicono, insomma, inaccettabile il livello della pulizia dei treni, insomma, gli scarsi investimenti sulle rotte secondarie. Restando invece nel tema... sul tema che abbiamo scelto per l'apertura, alcuni di voi si preoccupano del debito pubblico e del deficit. Attenzione, tutti gli stati stanno imbarcando debito, deficit e quindi debito. Se qualcuno di voi ha sentito venerdì l'intervista che abbiamo fatto da Cernobbio con Jean-Paul Fitoussi, lui è dell'idea, come altri economisti, che in questo momento l'ultimo dei problemi sia il debito, ossia si imbarchi pure un po' di debito, di deficit in più, purché questo permetta la tenuta del tessuto economico e a questo punto anche sociale, per cui, insomma, i parametri di Maastricht li lasciamo ai tempi migliori, ai tempi virtuosi. Certo che prima o poi bisognerà rientrare, l'America in primo luogo e anche l'Europa, rientrare su deficit e debito. Per quello che riguarda invece questa proposta, la CGIL, che si ritorni a dialogare, fatti concreti. Ricorderanno alcuni di voi che lo scorso gennaio, quando è stato firmato l'accordo tra Confindustria e sindacati per riformare gli accordi del 93, cioè dare più peso alla contrattazione aziendale, quella che si chiama di secondo livello, e lasciare a quella nazionale il livello di cornice, la funzione di cornice, questi accordi non videro la firma della CGIL, ecco perché facevamo il riferimento. Gli accordi prevedono anche che i contratti vengano rinnovati ogni 3 anni e che ci sia un'inflazione calcolata utilizzando i dati Eurostat senza l'energia. In questo momento ci sono 23 contratti nazionali in attesa di rinnovo, cioè il 10% dei dipendenti, 1.700.000 persone, pari a il 15% delle retribuzioni totali. Per quello che riguarda l'apertura della CGIL, oggi il nostro Simone Spezia ha raggiunto il segretario della UIL Angeletti. Il fatto che la CGIL torni a manifestare la voglia, l'interesse a ricostruire una posizione dopo la sua decisione di non accettare l'accordo sul modello contrattuale può essere sicuramente un segnale positivo. Ci auguriamo che dalla disponibilità si arrivi alla sostanza, e la sostanza è riconoscere che abbiamo fatto un ottimo accordo e che questo accordo può essere la base per firmare i contratti e quindi per far sì che finalmente arrivi qualche aumento sulle buste paga dei lavoratori. E proprio questa settimana entra nel vivo l'avvertenza del rinnovo per i metalmeccanici, poi ci sarà quella della chimica, delle comunicazioni, dell'agroindustria, del commercio e del terziario. La nostra Anna Marino ha raccolto due opinioni politiche in questo caso. La prima è quella del deputato della PDL, ossia del Popolo della Libertà, Giuliano Cazzola, noto anche esperto di relazioni industriali, ospite più volte in questo programma. Sostanzialmente la CGIL dice: se io posso rientrare con la mia impostazione nella discussione sui criteri della contrattazione, do la mia disponibilità sostanzialmente a riprendere il dialogo con la Confindustria. E per quanto riguarda i prossimi rinnovi contrattuali, come li vede? Io credo che i metalmeccanici siano un po' messi persi, perché lì c'è una posizione anomala della FIOM che ormai è diventata una posizione storica, no? Ma è molto interessante invece quello che si faranno negli altri contratti a partire dagli alimentaristi. Mi pare che la mediazione che si è trovata recentemente negli alimentaristi dimostri appunto che si va incontro in qualche modo a quelle che sono le esigenze della CGIL di avere rinnovi contrattuali più robusti. Rimane il nodo delle risorse per settembre. Rimane il nodo delle risorse e quindi la CGIL ha capito che senza dover chiedere a viure a nessuno, però può vincere la partita o quantomeno può rientrare nella partita dicendo ai suoi: vedete che poi il contratto nazionale continua ad essere lo strumento primario, lo strumento prioritario delle relazioni industriali. La partita è ancora aperta, vede una via per ricomporre tutte le parti? Vedo un tentativo di ristabilire un asse Confindustria CGIL, vedo un silenzio imbarazzato di CISL-UIL e parecchi punti interrogativi nella posizione del governo. Così Giuliano Cazzola, esponente del Popolo di Libertà, sempre la nostra Anna Marino, come dicevo, ha intervistato anche l'ex ministro Cesare Damiano, responsabile del lavoro per il Partito Democratico. È positivo che le parti sociali riavvicinino le loro posizioni in una situazione come l'attuale. In secondo luogo, noi dobbiamo affrontare nell'autunno due problemi enormi. Il primo è quello dell'occupazione, della sua tutela. Il secondo è quello del reddito. Quindi una convergenza fra le parti sociali, in questo caso Confindustria, CGIL e CISL-UIL, sulle misure che il governo deve adottare in termini straordinari per fronteggiare una crisi che purtroppo non è alle nostre spalle, è importantissimo. Io penso ad una misura condivisa da tutti, come il raddoppio della durata della cassa integrazione ordinaria, da portare da 12 a 24 mesi per tutelare adeguatamente imprese e lavoratori nel periodo della crisi. Come vede la stagione dei rinnovi contrattuali alla luce di questi nuovi sviluppi? L'accordo quadro siglato dalle parti sociali, ma non dalla CGIL, nel momento in cui si traduce in applicazione concreta, settore per settore, categoria per categoria, nel rinnovo dei contratti nazionali, può trovare, come è stato per alcune categorie, le sue convergenze nell'applicazione che possono superare, come si dice, i problemi che sono stati all'origine della divisione. Naturalmente questo significa anche uno sforzo da parte di tutti. La convergenza aiuta, l'unità in questo momento è un bene prezioso per il Paese. Staremo a vedere se appunto questo tentativo di tornare a un dialogo porterà poi a dei fatti concreti in mesi e settimane delicatissime per il rinnovo contrattuali a fronte, lo ripeto ancora a chi scrive al 349-238-6666, di una situazione assolutamente delicata sul tema occupazione, tant'è che appunto le previsioni non sono certo rose, anzi sono più che cupe. Adesso il meteo, la pubblicità e poi parliamo dell'altro tema che molto modestamente stiamo cavalcando e tenendo alto da un po' di settimane, le banche americane, europee che sono tornate a fare utile, questo ci fa piacere, vorremmo capire come l'hanno fatto questo utile, se è passata la festa e cosa succede al santo. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e la verità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Eh sì, noi continuiamo con la nostra piccola personalissima campagna sugli utili bancari, utili dei colossi americani, abbiamo visto Citigroup, Goldman Sachs, ma anche utili delle banche europee, utili per esempio di molte banche italiane. Perché nei primi sei mesi dell'anno Bank of America ha fatto 5 miliardi di euro di utili, 4,2 Citigroup, 3,7 Goldman Sachs, 3,5 JP Morgan. Da noi Intesa 1,5 miliardi, Unicredit 900 milioni, Monte dei Paschi 300 milioni. E questo ci fa assolutamente piacere, vorremmo capire però come mai gli spread restano così alti, le differenze tra quanto costa denaro alle banche e costa invece ai clienti e alle imprese, come mai molte imprese denunciano un giro di vite, un credit crunch sui crediti concessi. E per quello che riguarda soprattutto l'America, se non stanno ripartendo i vecchi vizi, mi dispiace, ma finché non otterremo risposta continueremo. Anche perché adesso la finanza creativa, diciamo per essere buoni, di Wall Street si sta spostando sulle polizze vita di americani, che le polizze, diciamo, che dovrebbero servire in caso di morte a distribuire poi i soldi ai familiari, vengono riscosse. Chiaramente quando vengono riscosse, quando il cliente è ancora in vita, vengono scontate. Sembra che ci sia un nuovo mercato, un po' che ricorda quello tanto simpatico e carino del subprime, in cui le banche si girano queste polizze, spacchettano il rischio, giocano sul timing, sugli spread per guadagnarci. Parlo dell'America, chiaramente, insomma, non ce la fanno proprio a non così essere creativi nella finanza. Questa volta il tema non è, lo dico, chi sta scrivendo i bonus dei manager, quello è un aspetto, diciamo, più da governance e da etica interna. Qui interessa capire se le banche mondiali stanno tornando a registrare tutti questi utili, beh, insomma, come mai e quanto è costata alle collettività, visto che si calcola che solo sugli investimenti bancari complessivi al mondo siano stati 4.000 i miliardi dei vari contribuenti dei vari paesi dati alle banche per non farle affondare. E poi c'è l'ira del nemmeno tanto velata del ministro Tremonti, perché insomma, cosa è successo? A Cernobbio il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, ha detto: beh, noi potremmo anche rinunciare ai Tremonti bond, alle obbligazioni di Tremonti. E lo stesso presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ha detto: beh, la situazione economica sta migliorando, per cui e anche i conti delle banche, seppur non brillanti, potrebbero rendere meno utile e necessario il ricorso alle obbligazioni offerte dal governo, che vanno sotto il nome dei Tremonti bond. E lì è arrivata la censura, la critica del ministro Tremonti, che ha detto: quando le banche dicono che non servono, dicono una cosa contro l'interesse del paese, perché queste obbligazioni, questo prestito dello Stato doveva servire alle banche per poi girarlo verso le piccole e medie imprese. Se non lo usano, o ci dimostrano, qui interpreto io, che stanno comunque elargendo credito alle piccole e medie imprese, o vuol dire che vanno contro l'interesse del paese. I bond, ebbene, su quello c'è ancora moltissimo da fare. Tenete conto che i bond hanno un moltiplicatore da 1 a 10 e quindi per 10 miliardi di titoli hai 100 miliardi possibili di finanziamenti alla piccola e media impresa. Questo è nell'interesse del paese, alla piccola e media impresa, alle famiglie, ai lavoratori. Non è nell'interesse delle banche, perché quegli strumenti non sono fatti per le banche, sono fatti per le imprese. E quando le banche ti dicono che non gli servono, che non gli vanno bene, dicono una cosa che è contro l'interesse del paese, perché non sono fatti per le banche, sono fatti per le imprese. E non sono stati fatti da noi, sono stati chiesti dalle banche, sono stati disegnati in Europa, dall'Europa, come meccanismo, come tasse di interesse. Io quando sento dire 8,5 è troppo per prendere denaro, non prendo denaro, prendo capitale, che è una cosa totalmente diversa. E comunque quel numero l'ha messo l'Europa, non l'abbiamo messo noi. Il problema di quei bond non è il mercato dei capitali, l'ingegneria, quanto e come si inseriscono nel bilancio delle banche, quanti soldi vanno alle piccole e medie imprese. Quegli strumenti aumentano la base patrimoniale delle banche, il Core Tier 1, ma non per finanziare o rafforzare le banche, ma per finanziare le piccole e medie imprese. Sono un ponte che passa attraverso le banche verso la piccola e media impresa. Se su quel ponte c'è un signorotto che dice che il diritto di passaggio gli va o non gli va, non è giusto. Non è giusto non nei confronti del governo, non è giusto nei confronti delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori. Allora, vedo già le critiche, sei d'accordo con Mr. Monti? Vabbè, cos'è, un reato, un peccato? No, siamo d'accordo, non con Mr. Monti in generale, ma col fatto nello specifico che è un po' strano, visto che fino a marzo si paventava il rischio sistemico, l'armageddon del sistema bancario. Adesso siamo contenti, che lo ripeto per la terza volta, che le banche facciano utile. È inutile che qualcuno scriva cosa vuoi, abolire i dividendi delle banche, ma figuriamoci, ci sono azionisti, sono quotate, ben venga. Vorremmo che però questo risanamento delle banche, a questo risanamento partecipassero anche i piccoli imprenditori, chi ha un mutuo, gli artigiani, i commercianti, e su questo mi dispiace scontentare qualcuno, siamo assolutamente d'accordo con il ministro Tremonti anche in questo secondo passaggio. Qui il problema è che abbiamo un sistema produttivo che è fatto per il 90-95% da piccole e medie imprese, e abbiamo un sistema bancario concentrato in una logica industriale per una quota enorme del mercato. Nulla contro la struttura dimensionale, la grande dimensione, ma tu non puoi avere una struttura produttiva piccola e una banca che ragiona da grande industria bancaria, perché non corrisponde al bisogno di questo paese, e la crisi l'ha messo in evidenza. Che bisogno hanno le nostre imprese e le banche del territorio? Il modello McKinsey non è il modello adatto all'economia italiana, il modello industriale non è il modello adatto. In Germania hanno le grandi banche industriali, ma hanno anche 7, 8, 10, 15 grandi industrie. Da noi è diverso, e non puoi avere le banche con quella configurazione e un'economia con una configurazione diversa. Quindi banche del territorio. E la crisi lo rende evidente. Modello McKinsey, riferimento era chiaro, visto che da lì vengono sia Alessandro Profumo che Corrado Passa. Le informazioni per chi è in viaggio, chiedo venia per un leggero ritardo, e poi commento di borsa, oggi senza Wall Street, chiusa per il Labor Day. Di nuovo in diretta per commentare la borsa, che ha chiuso con 1,5% in tutta Europa di rialzo, chiuso Wall Street, però, a parte che alcuni bancari ci segnalano che di nuovo i loro responsabili stanno proponendo di vendere, anzi imponendo di vendere polizze index legate ai mercati azionari, e vabbè, dipende come vengono spiegate, nessun strumento è negativo in sé, dipende se viene venduto come uno strumento a basso rischio invece pieno di rischio, o se viene venduto correttamente. Altri di voi dicono: ma perché non fate un collegamento con il Festival di Venezia, il nuovo film di Michael Moore, Wall Street Love Story? E va bene, accontentati, però poi parliamo di borsa. About a year and a half ago, decided to finally... Circa un anno e mezzo fa ho iniziato a pensare a questo progetto perché mi sono accorto che c'erano molte cose che non andavano. Gente che perdeva il lavoro, la nostra economia che si basava su elementi non sani, oltre il 50% della gente che faticava ad arrivare a fine mese. Ho pensato che fosse il momento per fare un film di questo tipo. I ragazzi in borsa non piangevano ancora, ma già negli 8 anni di Bush la gente del Michigan, dell'Indiana, di città come Detroit, soffriva. La disoccupazione cresceva e cresceva, così come il divario tra ricchi e poveri. Bisogna inoltre considerare che in un paese come l'America, in cui il gioco d'azzardo in molti stati è bandito, abbiamo concesso a Wall Street e a chi operava di giocare e scommettere con i soldi degli altri. A law that says gambling is illegal, but we've allowed Wall Street to do this, and they've played with people's money and taken it. Poi altri passaggi li faremo ascoltare nei prossimi giorni. Dunque, Barisone, non puoi obbligare un privato a rimetterci per tutti in nome del paese. Nessuno obbliga le banche a rimetterci, stiamo solo dicendo se la situazione è migliore del previsto, vorremmo vederla anche in quello che è l'attività classica, tradizionale di gestione del credito e del rischio del credito, non diciamo chiudendo la borsa, la scarsella, come dicono in Veneto. Allora, la borsa 1,5% FTSE MIB, bene, molto bene, in pregilo. Abbiamo detto già di questo contratto con Abu Dhabi, un commessa da 243 milioni di dollari per costruire il tunnel per le acque reflue, e il titolo guadagna 4,6% e va praticamente a 3 euro per azione. Ma il miglior titolo in assoluto è, tra quelli di maggiore capitalizzazione, è ST Microelectronics, più 5,1% a 6,45 euro. Andrea Fontana, Radio Coro, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Perché ST Microelectronics? ST Microelectronics già da un paio di sedute oggetto di forti ricoperture. Ricordavamo al fine della scorsa settimana le buone indicazioni che sono arrivate da altri concorrenti della società sul secondo semestre. Oggi ad accendere il settore è invece un'altra notizia di operazioni straordinarie in arrivo. Il fondo sovrano ATIC di Abu Dhabi ha offerto 1,8 miliardi di dollari per acquistare il produttore di microprocessori Singapore Chartered Semiconductor. Questo ha acceso gli acquisti un po' su tutto il comparto, che è stato, insieme a quello alimentare, a quello chimico, il protagonista della seduta di oggi. ST ha recuperato ben 5 punti percentuali, chiudendo ormai vicino a 6,5 euro per azione. Bene, anche Parmalat più 3,80, Geox più 3,3 come Autogrill, e ancora Tenaris più 3,1. Tenaris? Sì, per quanto riguarda Tenaris sono arrivate delle positive indicazioni o segnali di ottimismo da parte dei manager, in particolare il presidente e l'amministratore delegato del gruppo Paolo Rocca, a Londra per incontri con la comunità finanziaria si è detto fiducioso nuovi progetti di sviluppo nel settore petrolifero. Ha detto che la loro percezione è che le aziende petrolifere stanno ripartendo con progetti per l'approvvigionamento, e nel 2010 si avranno più progetti. Ecco perché il mercato ci ha creduto e ha premiato con un incremento superiore ai 3 punti percentuali Tenaris, che ormai è abbondantemente oltre i 10 euro per azione. E questo per Tenaris. Poi abbiamo un'altra pattuglia di titoli che bene sono andati: CIR più 3,1, Banco Popolare più 2,90, Luxottica più 2,80, Telecom più 2,7, Italcementi più 2,6 come Prismian e Buzzi Unicem. Il 2,5 è il guadagno di Unicredit, Intesa più 2, Fiat più 1,7%. I migliori e peggiori in assoluto: Indesit più 12, Biancamano più 9,4, EMS più 14, BTIM più 14,6, titoli molto sottili. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per concludere il commento di borsa, poi passare a questa operazione per ora respinta della Kraft e poi parlare delle Ferrovie dello Stato con il numero uno Massimo Moretti. Allora, Andrea Fontana, si diceva di Telecom Italia, la Telefonica, che è la Telecom spagnola e ha una quota importante dentro Telecom Italia, ha concluso un accordo con China Unicom, quindi gruppo cinese, in cui investirà Telefonica 1 miliardo dentro China Unicom e porterà la sua quota all'8%, e a sua volta i cinesi investiranno 1 miliardo in Telefonica, portando la quota, se ben ricordo, allo 0,90%. Come ha reagito Telecom Italia? Telecom Italia ha reagito molto bene, guadagnando il 2,7%, ha reagito bene anche Telefonica quotata a Madrid, che ha guadagnato il 2%, comunque in una giornata positiva per le TLC, come era già stata quella di venerdì. Certamente questo ingresso di un nuovo azionista cinese, un nuovo azionista anche di carattere industriale, perché oltre allo scambio di incrocio azionario è prevista una cooperazione dei due gruppi nelle diverse aree di gruppo, nelle piattaforme wireless, la fornitura di servizi a imprese internazionali, nella ricerca e sviluppo, eccetera. Questo ha fatto tornare anche un po' di ottimismo su Telecom Italia, dopo anche le parole arrivate dall'amministratore delegato da Cernobbio lo scorso venerdì, che abbiamo fatto infatti ascoltare. Bene, gli altri titoli, si diceva Unicredit riceve un buon giudizio da UBS, io sui target price comunque, vabbè, più 2,4%, Intesa più 2%, Fiat più 1,7% come Mediaset e Mondadori, Bulgari 1,6%, Popolare di Milano 1,5% come l'Automatica, Mediolanum più 1,3%, Pirelli più 1,2%. In una battuta, Andrea, visto che adesso è il prossimo tema, come ha reagito il settore alimentare a questa mega offerta respinta di Kraft su Cadbury? Il settore alimentare europeo è stato il migliore in Europa, guadagnando il 2,4% per quanto riguarda l'indice di DJ Stoxx 600 del comparto. In Italia non sono molte le società del comparto alimentare, certamente quella più in vista è Parmalat, ha guadagnato un 3,8%, restando insomma tra le migliori del FTSE MIB per tutta la giornata. La stessa Cadbury, chiaramente oggetto d'offerta respinta per questo momento dal consiglio di amministrazione della società britannica, ha guadagnato il 38% sul finale. Ed è il motivo per cui Londra va meglio di altre borse, più 1,7%. Ripeto, chi ce lo scrive al 349-238-6666, Wall Street oggi è chiusa per il Labor Day. Grazie Andrea Fontana, e noi restiamo proprio su questa voglia di shopping con un'operazione che, se andasse in porto, creerebbe un gigante mondiale. Beh sì, perché se si fondessero, diciamo, Cadbury e Kraft, si avrebbe una società capace di fatturare 50 miliardi di dollari l'anno, e Kraft diventerebbe, eguaglierebbe la quota che ha Mars, altro nome famoso nelle barrette di cioccolata, nelle tavolette di cioccolata. L'obiettivo comunque è diventare leader nelle merendine, nei piatti pronti. Sentiamo i dettagli dell'offerta e anche così il perché del rifiuto dal corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Leonardo, buonasera. Buonasera. Allora, Kraft ha offerto 10,2 miliardi di sterline, sono quasi 12 miliardi di euro, pagando un 30% in più rispetto al prezzo di borsa. Come mai gli inglesi hanno detto subito no? Hanno detto di no perché non basta, secondo loro, cioè, nel senso che non solo Cadbury, ma devo dire che la maggior parte degli analisti, in generale i commentatori, ritengono che l'offerta, nonostante il premio sul prezzo di chiusura di venerdì sia già piuttosto, fosse già elevato, più del 30%, nonostante questo ritengono che la valutazione non sia sufficiente. Chi fa esempi con recenti, nel 2008 Mars aveva preso la Wrigley's, quelle che fanno le cicche per le gomme da masticare, con un 19,5 volte l'EBITDA. In questo caso saremmo molto al di sotto. Se soltanto venisse applicato un 15-16 volte come moltiplicatore, Cadbury dovrebbe essere valutata 10 sterline ad azione. Attualmente, oggi ha chiuso, nonostante questo aumento, a circa 8. E a questo punto, da quello che si capisce nella City, è immaginabile un rilancio di Kraft, perché il mercato, da come si è mosso, sembra scommetterci. Sì, è immaginabile, nel senso che anche nelle parole degli uomini di Kraft si è capito che sono stati loro a dire di aver fatto l'offerta e di aver ricevuto un no questa mattina, e hanno precisato di averlo così reso noto proprio per cercare, come dire, di migliorare i rapporti con la società, con Cadbury, per avviare una trattativa di più lungo corso. Dal canto di Cadbury sembra di capire che la società, nonostante insista dicendo la nostra strategia di stare per conto nostro, ci stiamo riposizionando, questa è un'opportunità, questa è un'offerta che arriva in un momento in cui le valutazioni sono a ribasso e in un momento in cui la nostra società è fortissima sui mercati emergenti, e quindi non è una valutazione che non tiene conto di questo potenziale. Nonostante questo, nel comunicato di Cadbury sembra di capire che, come dire, si lascia spazio al prezzo, nel senso che dicono: è un'offerta che rigettiamo soprattutto per il valore che indica, non perché sia in assoluto e inaccettabile. Quindi è un problema di soldi. È un problema di soldi che potrebbe risolvere un terzo contendente, un secondo contendente. Si parla di un possibile interessamento di Nestlé, che ovviamente non dice niente, però a quel punto diventerebbe una partita molto interessante per Cadbury se due player come Nestlé e Kraft si mettessero a giocare, come dire, a rialzo, certo. Però quello che è importante è che non c'è un rifiuto del piano industriale, chiamiamolo così, dell'ipotesi industriale, c'è un rifiuto dei soldi che vengono offerti, ecco perché poi lo scenario è aperto sia a un rilancio da parte di Kraft che all'ingresso di un terzo, o meglio di un secondo soggetto, quanto a offerta. Grazie Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra. Adesso, dopo le informazioni per chi è in viaggio, ultimo tema, come promesso, le Ferrovie dello Stato, questa volta non per parlare di Freccia Rossa, di alta velocità, ma, dicono alcuni di voi, finalmente, per parlare del trasporto locale, dei pendolari, delle reti, diciamo, non ad alta velocità. Sappiamo, e abbiamo raccolto anche oggi decine di sms che lamentano ritardo nei treni regionali, chiamiamoli così, e nei treni locali, scarsa pulizia. Su questo c'è stata quest'estate anche una vicenda non bella negli appalti per le pulizie dei treni e quant'altro. Dunque, le Ferrovie dello Stato del trasporto locale, inizio subito chiedendo scusa perché chiaramente l'ingegnere Moretti si chiama Mauro e non Massimo, spero che sia l'ultima delle imprecisioni. Buonasera quindi all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Buonasera a voi, finché c'è imprecisione c'è speranza. Vabbè, adesso vediamo, sì, però non è che parte in discesa, adesso arriviamo. Io ho chiesto venia, ma andiamo con le vostre notizie. Oggi, nel corso della giornata del trasporto ferroviario regionale, voi avete annunciato 2 miliardi di euro di investimenti per ammodernare e potenziare il trasporto regionale. Siccome già abbiamo decine di sms che... il cui tenore lei può immaginare, non si crede nessuno? Che lamentano la qualità, la scarsa qualità del servizio. Vorrei capire come li spenderete questi 2 miliardi, proprio concretamente. Li spenderemo per riuscire a risolvere, se è possibile, i problemi che la gente lamenta. I problemi che nascono oggi nel trasporto locale sono localizzati soprattutto nelle grandi città o attorno alle grandi città, nelle ore di punta dei giorni feriali. Uno dei motivi più grandi è perché non ci sono treni a sufficienza. La domanda si è espansa in questi ultimi anni perché sono esplose le città al di fuori dei confini normali, i famosi anelli stradali. Non c'è stato naturalmente nessun intervento in parallelo per poter dare servizi, né era possibile da parte del Ferrovie dello Stato e di Trenitalia darli, perché sapete che due anni e mezzo fa era sull'orlo del fallimento. E quindi, come dire, di fronte a tutti questi begli eventi abbiamo cercato di fare quello che fa chiunque con un po' di buon senso. Prima, far sì che l'azienda non muoia e quindi rimettere a posto i conti, perché se l'azienda muore non c'è neanche più la discussione e neanche la gente sa indirizzare gli sms di protesta. Secondo, cercare di risolvere quelli che sono problemi industriali, tra gli altri ad esempio quelli di riuscire a far sì che anche con treni in numero limitato, e cioè con un numero di posti limitato, cercare di dare il migliore servizio possibile. Abbiamo aumentato di qualche punto la puntualità dei servizi, anche se la gente naturalmente non sarà perfettamente soddisfatta, soprattutto, come dicevo, nelle ore di punta, dove proprio perché è una punta i problemi si acuiscono. Terzo, affrontando problemi storici come quello delle pulizie o delle non pulizie, che ci siamo trovati qua e che probabilmente in passato nessuno ha avuto il coraggio neanche di affrontare. Quarto, messi a posto i conti, affrontando questi problemi, stabilire dei contratti veri esigibili da ambo le parti, nel senso che noi facciamo servizio se abbiamo soldi, senza soldi non si può fare servizio, e d'altra parte si richiede che questo servizio abbia certe prestazioni di qualità minime. E quinto e infine, questo ritengo sia per molti motivi un problema una cosa importante, i famosi 2 miliardi di investimento che nascono da autofinanziamenti in grande parte. 500 milioni dallo Stato, 1.500 vengono fuori in autofinanziamento rappresentano la prima azione di investimento importante che stiamo facendo, per me io sto facendo da quando sono qua, perché l'alta velocità ho utilizzato quello che era già stato, gli soldi già spesi in passato, li ho riorganizzati e resi visibili ed efficienti. Sulla parte trasporto locale è il primo grande investimento che partiamo e sicuramente non sarà in grado di risolvere tutti i problemi e risolverli subito, però è in grado di poter dare una risposta in una direzione di sviluppo. Era quello che nel mio piano industriale di 2 anni e mezzo fa dicevo, se occorrono 1.039 di trasporto locale, non riusciremo a farne 1.000, comunque un primo passo importante verso una direzione che dà speranze solide. Ingegnere Moretti, mi faccia capire concretamente, insomma, quando parliamo di trasporto locale in senso lato, regionale, pendolari, le lamentele che arrivano sono di tre tipi. Per ultima tengo quella delle pulizie, perché è una vicenda di quest'estate, vorrei avere anche qualche commento da lei. Però la qualità dei locomotori e dei vagoni, per cui fare in modo che non siano vecchi, che non siano carro bestiame, che non si rompano, e poi la puntualità. Con questi 2 miliardi cercherete di rimediare a questo? Cioè comprerete locomotive, comprerete carrozze, detto in maniera un po'... Sì, faremo questo, però lei ha toccato un problema che non è divisibile. I carri vengono chiamati bestiame perché sono affollati all'inverosimile. Le ho già detto che se non ci sono treni a sufficienza, posti da offrire o centimetri quadri da offrire, la gente sarà sempre affollata più che sordine. L'unica risposta è comprare treni. Secondo, che i treni siano vecchi perché nessuno prima li ha comprati, prima che arrivassi io naturalmente. E quindi l'unica risposta da fare è comprare treni nuovi. Terzo, che i locomotori non si rompano è perché molto spesso sono stati sovrasfruttati e quindi bisogna fare in modo che adesso l'acquisto di treni nuovi si riesca a trovare una utilizzazione di materiale rotabile più appropriata. Sono critiche vere, nessuna bacchetta magica per risolvere dall'oggi al domani, soldi come sapete ce ne sono pochi in giro e quindi di necessità abbiamo fatto virtù. Abbiamo fatto noi una grande razionalizzazione interna, aumentando in maniera drammatica la produttività e l'efficienza della nostra impresa, perché mettere a posto i conti vuol dire meno costi, meno sprechi e più efficienza e più produttività sia del lavoro che del capitale investito. E infine, proprio per questo, siamo in grado oggi di poter dare una risposta in avanti. E qui, però queste cose costano fatica, la gente pensa sempre ma all'ultimo arrivato si deve avere subito il primo, il secondo e il terzo, la frutta e il dolce, serviti e magari senza neanche spendere i soldi del piatto. Così non funziona. Siamo d'accordo, basta non arrivare subito alla frutta, per usare il suo esempio. Noi siamo partiti dalla frutta. Vabbè, allora... E siamo dovuti risalire al pane e all'ingresso. E all'antipasto. Adesso, quindi comprerete 150 locomotive e carrozze a 2 piani, come oggi recitano. Noi spenderemo innanzitutto soldi per affrontare il problema che ho dichiarato dal primo giorno che sono qui, il problema più urgente. Affrontare il problema del trasporto nelle grandi città. Il problema non è in tutto il trasporto locale. Abbiamo zone in cui abbiamo una qualità di servizio più che svizzera, con il 98% di puntualità, con la gente che sta bella larga e non ha nessun problema. Il problema drammatico è la mattina di tutti i giorni feriali verso Milano, in 2 ore si concentrano degli ingressi di milioni di persone, verso Roma, verso Napoli, sui grandi corridoi che collegano città intermedie, penso al corridoio Via Emilia oppure il corridoio che da Milano va verso Venezia. Questi sono i grandi problemi che dobbiamo affrontare. Quindi concentrerete le risorse. Noi concentreremo gli investimenti su treni fatti per queste cose, quindi locomotori e carrozze 2 piani, in modo che in una composizione, non so, di 8 carrozze vi siano 1.600 posti da poter offrire. Allora, io ho ancora pochi minuti, ma 2 domande importanti per lei, ingegnere Moretti. La prima, voi avete risanato i conti, questo gliene diamo atto. Ogni volta, addirittura siete riusciti a fare un utile, per quanto simbolico, dopo un gruppo che 2 anni fa aveva oltre 2 miliardi di rosso di esercizio, però avete un debito che pesa come un macigno, ancora 9 miliardi se non ricordo male di debito sul gruppo dell'FS, un debito che viene generato, inutile nascondersi dietro un dito, anche dalle linee locali che sono meno profittevoli. La domanda è molto semplice: questi investimenti porteranno biglietti più cari sulle linee locali? No, anche qui l'hai fatto bene, che intanto il problema della situazione finanziaria è ancora un problema grande per noi, e quella vera è di circa 6 miliardi che riguarda Trenitalia, l'altro un problema legato all'infrastruttura a lunga scadenza senza problemi. Consideri che nel risultato che abbiamo fatto non era un risultato di EBIT, era un risultato netto, cioè abbiamo fatto un utile dopo aver pagato quasi 400 milioni di interessi sul debito. Quindi questo è ancora il senso di quello che abbiamo fatto. Per il resto, ho perso il senso della domanda. No, se aumenteranno i biglietti delle tratte locali. Non aumenteranno i biglietti se non seguendo quello che vanno le regioni, perché pochi sanno che la definizione del numero di treni, dei servizi, il livello delle tariffe e così via è definito dalle regioni. Dalle regioni. Okay. Noi contrattualizziamo con le regioni, prendendo atto di quelli che sono i servizi che vogliono dare e i prezzi che vogliono fare ai loro cittadini, su quella base apriamo il confronto facendo vedere quali sono i costi in maniera analitica, come abbiamo fatto questa volta, una open book, e facendo un'offerta calibrata su quello che è il tipo di servizio che la regione vuole fare, che naturalmente è diverso dalla Lombardia, ripeto, polarizzata su Milano, è una sorta di Île-de-France parigina, rispetto a quello che può essere una regione policentrica che non ha una grande città. Quindi se non verrà chiesto, diciamo, nella trattativa con le regioni, non dovrebbero esserci aumenti generalizzati. Le chiedo di rispondere brevemente, perché sennò poi il mio amico Giuseppe Cruciani si arrabbia, che sforiamo i tempi, all'ultima domanda, e cioè con le pulizie, dopo le vicende di questa estate, lei ha denunciato che con i vecchi contratti per le pulizie dei treni, soprattutto quelli locali, pagavate 12.000 addetti e avete scoperto che lavoravano in 6.000. La vicenda si è chiusa o continuate a ricevere minacce, sabotaggi? Ma intanto non si è chiusa perché i contratti sono tanti, le gare come lei sa sono tante, e purtroppo abbiamo ogni giorno davanti al TAR e al Consiglio di Stato un ulteriore freno che queste ditte ci oppongono. E qui c'è un grande problema, questo paese deve riuscire a far sì che una organizzazione, se è un'impresa, abbia gli strumenti di impresa, ma se devo lavorare come se fosse una pubblica amministrazione non riuscirò mai a trovare una risoluzione reale ai problemi che ho. Il secondo problema, abbiamo affrontato le cose più emergenti, più urgenti, importanti a Roma, a Napoli e così via, con delle nuove ditte che ha subito dimostrato che sanno pulire molto bene, in maniera professionale. Adesso dobbiamo andare avanti e abbiamo bisogno ancora del sostegno. Da parte nostra c'è una volontà di assolutamente andare avanti fino all'ultimo e non lasceremo spazio a nessuna intimidazione a nessuno. Devo dire peraltro che i lavoratori che hanno avuto a che fare con le nuove ditte scoprono che sono delle ditte vere, delle imprese che sanno fare l'impresa vera, e quindi sta meglio anche loro stessi, lavorano con maggiore tranquillità e magari con un po' più di tecnologia, che è quello che serve anche nelle pulizie. Grazie e in bocca al lupo per queste avvertenze, perché ha tutto il nostro appoggio, che è inaccettabile vedere gente che non lavorava, lavorava male e poi fare ricorsi al TAR. Speriamo che appunto con la trattativa con le regioni non aumentino o non aumentino in maniera significativa e ingiustificata i prezzi dei biglietti locali, che questi 150 tra nuovi motrici e vagoni arrivino il prima possibile. Grazie all'ingegnere Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Grazie a lei. Buonasera. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni l'augurio di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.